vedono sull'acqua una gobba, in tutto simile a una roccia, e roccia infatti era. Ma non sembrando loro credibile, dice allora la madre: non indugiamo, andiamo a vedere che cosa sia, frettiamoci. Arrivati sul posto, scoprono una cosa che poco si aspettavano. Sulla roccia a cui sono giunti, scorgono seduto un uomo nudo, duramente condannato, colpito, lacerato e stracciato. Aveva il viso avvolto in un panno e si teneva ad un pilastro. Si aggrappava con forza alla pietra perché le onde non lo rovesciassero indietro. I flutti marini lo colpivano con violenza, per cui la sua morte non aveva fine. Un'onda lo sferza quasi a sommergerlo. Quella dopo lo spinge in alto. C'è pericolo davanti, pericolo dietro, pericolo sopra, pericolo sotto. È tormentato da destra, non meno da sinistra. Fra un attacco e l'altro dei flutti, estenuato, piange la sua sorte. All'infinito questa mia morte, Gesù, che muovi tutto il firmamento, la tua pietà è ora tanto preziosa. Gesù, che sei tanto misericordioso, verrà la fine dei miei tormenti. Gesù, figlio di Maria, non so se ho il diritto di chiederti perdono, non posso e non oso, perché tanto ho peccato che il giudizio su di me ormai è stato emesso. Quanto brandato lo udì lamentarsi in questo modo, provò un dolore mai conosciuto. Alzò la mano e su tutti fece il segno della croce e cercò in tutti i modi di avvicinarsi. Quando lo raggiunse, il mare ristette, né vento, né brezza lo agitarono. Brandano disse: dimmi, infelice, perché soffri questi tormenti? Nel nome di Gesù che tu invochi, io te lo ordino. Dimmi con sincerità, chi sei? E per quale colpa sei qui? Le lacrime impedirono a Brandano di parlare oltre e dovette tacere. Quello gli rispose con voce bassa, roca e mortalmente stanca: io sono quel Giuda che serviva Gesù, che io stesso poi tradito. Io sono colui che vendette il suo Signore e che dal dolore infine si impiccò. Lo baciai simulando amore, mettendomi scorta tra quelli che dovevano pacificare. Io sono colui che si tenne il suo denaro e lo sperperò furtivamente. Le offerte che lui portavano e che egli esortava a dare ai poveri, io le nascondevo nella mia borsa. Perciò mi è toccata questa pena, a me, che pensavo di celare i miei misfatti a chi ha creato un cielo stellato. Negai il denaro di Dio ai poveri, e ora essi sono ricchi, mentre io mendico. Io sono il fellone che odio Dio e che consegnò ai lupi l'agnello innocente. Quando lo vidi poi nelle mani di Pilato, mi rattristai molto in viso. Quando lo vidi nelle mani dei giudei, quel pio consegnato quei crudeli, quando vidi che lo adoravano con beffe e lo incoronavano di spine, quando vidi quanto vilmente lo avevano trattato, ne fui molto infelice, sappiatelo. Poi vidi che fu condotto a morire, il suo caro fianco rigato di sangue. Quando vidi che fu appeso alla croce e messo a morte, venduto da me, subito regalai 30 denari, ma quelli non vollero accettarli. Non ebbi la saggezza di pentirmi e mi uccisi per mia follia. Poiché non mi confessavi, ora sono dannato per sempre. Tu non vedi nulla della pena con cui all'inferno sono sottoposto. Questo è solo il riposo della punizione che mi spetta la sera del sabato, domani per tutta la giornata fino al vespro, così trovo pace. Anche nella quindicina di Natale posso sospendere qui i miei tormenti, così come per le feste di Maria non devo subire supplizi a Pasqua e a Pentecoste, sofferenze più grandi di queste non ho. In tutte le altre feste dell'anno, invece, non c'è fine al mio patire. Domani, al calare della sera, da qui me ne andrò per sottopormi alle pene. Disse a quel punto Brandano: ora dimmi, se qui tu hai questo riposo, in quale luogo devi soffrire pene e tormenti? In quale luogo devi espiare? Quando lasci questa roccia, dove te ne vai? Giuda rispose così: è più vicino il regno dei diavoli. Non è molto discorso, solo un po', ma quanto basta perché io non lo senta. Proprio qui accanto ci sono due inferni, gran tormento a sopportarli. I due inferni che non si fermano mai, sono qui vicino. Il più sopportabile è orribile, molto doloroso per quelli che vi si trovano. Coloro che la soffrono pensano che gli altri, rispetto a loro, non subiscono alcuna pena. Al di fuori di me nessuno sa quale dei due sia il più doloroso. A nessuno ne tocca più di uno, mentre a me, infelice, toccano entrambi. Uno in alto e l'altro in basso, separati dal mare salato. Questo mare li divide ed è strano che tutto non ne arda. Quello in alto è più doloroso, ma quello in basso è più orribile. Quello vicino al mare è torrido e umido. Quello vicino al mare è gelido e puzzolente. Per un giorno e una notte resto in quello di sopra, poi altrettanto dimoro in quello di sotto. Un giorno salgo, l'altro scendo e non c'è mai fine al mio tormento. E cambio inferno non per alleviare le pene, ma per inasprire i tormenti. L'intero giorno di lunedì sono messo a girare sulla ruota e io, infelice, agganciato ad essa, turbino veloce come il vento che la fa andare nell'aria sbattendomi di qua e di là. Poi, l'indomani, tutto frastornato, sono scagliato via, volo verso la valle, oltre il mare, dentro l'altro inferno dove sopporto tanto male. Lì sono subito messo in ferri da diavoli che mi insultano duramente. Vengo coricato su un letto di schiedi e su di me sono messi pesi e rocce. Lì sono infilzato così tanto che, come potete vedere, il mio corpo è tutto bucato. Il mercoledì sono di nuovo scagliato in alto, dove il tormento mi viene cambiato. Per gran parte del giorno sono messo a bollire nella pece, che mi fa nero, come ancora vedete. Poi sono tolto di lì e messo ad arrostire, legato a un palo tra due fuochi. Quel palo di ferro è già lì piantato, se non è per me, non è per un altro. È così rosso, come se da 10 anni giacesse nel fuoco attizzato dal mantice. A causa della pece il fuoco mi si apprende per esacerbare il mio tormento. Dopo vengo di nuovo gettato nella pece, per meglio ardere, ne sono anche spalmato. Non c'è marmo così duro che se messo sopra non fonderebbe. Ma per sopportare questo tormento il mio corpo è fatto in modo che non possa distruggersi. Questo supplizio, per quanto mi torturi, io lo sopporto di continuo, giorno e notte. Il giovedì poi sono gettato di nuovo in basso e per subire una pena opposta sono messo in un luogo gelido, molto tenebroso e buio, e io così freddo che non vedo l'ora di ritornare in quel fuoco che tanto impetuosamente arde. Allora mi sembra che non ci sia tormento che io possa sentire più del freddo, e ad ogni pena ho sempre l'impressione che sia la più forte quando la subisco. Il venerdì ritorno in alto, dove sono preparati per me supplizi immensi. Tutto quanto il corpo mi viene così scorticato che della pelle non ne rimane assolutamente nulla. Quindi, con la carne viva, mi immergono in un miscuglio di furigine e sale. Subito dopo, per rinnovare quel tormento, ricresce la pelle tutta nuova. Ben 10 volte al giorno mi scorticano e mi obbligano a curarmi nel sale per farmi bere infine una fusione rovente di piombo e rame. Il sabato mi buttano di nuovo giù, dove gli altri mi cambiano la pena. Sono gettato quindi in una prigione più terribile e immonda che all'inferno si trovi, dove devo subire, scendere senza colpa. Rimango laggiù, nell'oscurità, fra le tenebre ignazie. Mi arriva un fetore così insopportabile che temo sempre che il mio cuore si schianti. Non posso vomitare per il rame che i diavoli di sopra mi hanno fatto bere. Allora mi gonfio tutto e la pelle si tende, mi sento oppresso e poco ci manca che io scoppi. Caldo, freddo e puzzo. Queste sono le pene che soffre Giuda. Poiché ieri era sabato, sono venuto qui il pomeriggio presto e oggi resto seduto a riposare. Ma mi aspetta una sera di dolori. Mille diavoli arriveranno all'improvviso e mi acciupperanno e la mia pace sarà finita. Ma se tu ne hai il potere, fammi avere una tregua questa notte. Se tu hai un tale merito, questa notte fammi stare tranquillo. So bene che tu sei santo Dio se sei arrivato in questo luogo senza paura. Brandano piangeva di rotto ascoltando il racconto di quelle pene. Gli chiese il significato di quel panno che lo avvolgeva e di quella pietra a cui era aggrappato, da dove e da chi gli venivano. Quello gli rispose: nella mia vita ho fatto poco di buono e ho commesso molte follie. Il tormento e la clemenza che qui mi aspettano mi dimostrano se in vita ho preferito il bene o il male. Con l'elemosina che ho sottratto acquistai un panno per un povero ignudo. Perciò questa stoffa che mi avvolge la bocca per non annegare. Quando l'onda mi colpisce sul viso, con questa mi posso in parte riposare, anche se all'inferno non mi è di aiuto alcuno perché non l'ho pagata con il mio denaro. Lungo un corso d'acqua avevo fatto un rialzo su cui appoggiai una solida passerella. Era un posto dove molti morivano, così che la gente non corresse pericolo. Per quell'azione ho qui tale sollievo al mio terribile castigo. Mentre la sera si avvicinava, Brandano constatò che diceva il vero. Vide arrivare mille diavoli per tormentare e far soffrire l'infelice da cui si recavano. Uno si fece avanti con un balzo, lo prese ad uncino. Brandano disse loro: lasciatelo qui fino a domani mattina. Quelli gli risposero con aria di sfida che non avrebbero rinunciato a portarselo via. Allora Brandano disse: io ve lo ordino e Gesù prendo come garante. Quelli dovettero lasciarlo anche se a malincuore. In fondo ogni sforzo per prenderlo era vano. Brandano rimase lì quella notte, con gran dispetto di tutti loro. I diavoli stavano dall'altra parte e attendevano con impazienza che si facesse giorno. Con voci molto ringhiose e rauche dissero che Giuda avrebbe avuto raddoppiata la sua pena. Ma l'abate rispose: non avrà nessun tormento oltre a quelli stabiliti dal giudizio divino. Thank you. tutti i diavoli se ne andarono, portando Giuda con loro.